poi invece c'è stato un problema, si è dovuto trattenere un giorno in più e ha dovuto prendere la nave. E sono dovuto andare a pigliarla alle 5, che era, vabbè, arrivava lì a Bona Industriale, sono andato lì a prenderla. Guarda, sto guardando adesso un messaggio, non ce n'è il messaggio tuo. Non c'è, mi fa arrivare fino al 20/10/2022. Il messaggio tuo non ce n'è. Perché mio compare. No, il messaggio tuo non ce n'è. Il 10 agosto ti ho chiamato esattamente per sapere dove attaccava, perché non lo sapevo, per sapere, però poi sono andato a tutti, la nave già si vede, non è che sono sceso da lì, ho detto ma sicuramente è qua, c'era tutta la fila delle macchine, io ho detto sono passato da tutti, via, eccoti qua. Il 21 agosto mi ha chiamato, non il 10. Il 21, sì. Esatto. E vabbè, adesso non mi ricordo perché Emanuele è venuta già per tre volte dopo quella volta lì, figura, ci vedo sabbia, comunque era una cosa. Vabbè, ma io stavo lavorando con il tuo cellulare, non mi potevi chiamare al numero normale. Non ce l'avevo già il numero normale, si è chiamato lì per quello. Poi ho chiamato anche a Tulipano, non mi ha risposto manco lui, ha detto o è in servizio e non può rispondermi, oppure chissà. Vabbè, comunque già, l'ho fatto lo stesso, non c'è problema. Non mette problema. Poi ricordati che lei arrivava là? Beh, lei abita a Bologna, non lo so che linea ha fatto. Si è arrivata con la Cruis, è arrivata a Civitavecchia. Dalla Civitavecchia e Barcellona attraccano al Molo Industriale. Tutte le altre attraccano al porto commerciale normale, capito? Ho capito. A Molo Asi, dai, ciao. No. Al Molo Asi attracca solo la Barcellona e la Civitavecchia, tutte le altre attraccano al porto normale. Ah, ho capito. E andare meglio a sapersi, dai. Meglio a sapersi. Adesso non sono andato manco più a pescare, io dico, avevo dato la passione per la pesca, boh. Mi è bastata la buruiscia, boh. Ho detto, quando vado in pensione, me ne vado ogni giorno a pescare, invece poi mi gioco il clissardo. E a periodi. Perché sto dicendo, ci sta davanti una boccaccia, io ce l'ho, eh. No, non mi serve. Non mi serve perché non ho nemmeno di boccaccia, figurati. La faccio lunga, lo so che lo si può usare, quindi. Anche una buona casa marina, ce l'ho, tanto non faccio nulla. Marina non va bene per la casa normale. No, quelle per frequenze marine. Parte da 156 a 100, arriva a 100, 180 e qualcosa, vado mi ammetto. È proprio frequenza bassa. Pensa che c'è l'altro inciso a Porto Torres, quella frequenza lì, quella marina. Com'è? E mi sa che c'è l'altro inciso di Porto Torres, la frequenza marina. La frequenza marina? Ho detto che c'è l'altro inciso di Porto Torres. Ah, probabile che ci abbiano anche loro. Sì, perché fanno soccorso a mare. Inciso? E da quando? Io so che farò questi lavori qua, queste cose qua. O fanno soccorso a mare oppure magari passano la chiamata, non lo so. No, non fanno soccorso a mare, no. Soccorso a mare c'è solo lavori a costiera, la capitaneria e basta. Cabagava. Quindi vabbè, già, li conosco tutti i capitanini, ho fatto da poco, ho fatto anche il rinnovo per pescare, adesso mi è scaduto di nuovo, devo rifarlo di nuovo, perché a dicembre scade, da gennaio dovresti rifarlo, ma l'ho fatto e poi non ci sono andato, cosa lo rinnovo a fare? Me l'hanno fatto subito perché mi conosco, ho detto Gianni vieni che te lo faccio, e me l'hanno fatto subito. E le portavo tutta la roba allora, le pedale dell'acqua, la roba da mangiare, fugato. Vabbè, ma il rinnovo lo puoi fare anche su internet. Già lo so, ma non c'ho stampante, come me lo stampo? Sì, lo so che si può fare anche su di me, ma tanto non mi so veramente di cosa lo possa fare. Non lo so nemmeno io, è stato per averlo. Se non fa una fanfante, quando vai? Io dico, dalla fine non fa una fanfante. Cosa? Cosa ha detto? Io non ci ho capito. Ho detto, se c'è i baracchini non è una stampante, quando vai? Non ce l'ho la stampante, vabbè. Ce l'avevo, addirittura io ce l'avevo di quelle che non fanno rumore e cose, di quelle a laser. Poi quando mi sono separato se l'ha portata via mia moglie, quindi non ce l'ho più per quello. Carli, ah, ho capito, poi vabbè. D'accordo. Quindi non riusciamo a beccare un portatile, no, va bene. Prova a chiamare l'amico tuo per se ne ha qualcuno. Magari cosa ce l'ha. Prova. Magari qualcuno lui ce l'ha. Sì, Gianni. Avanti, chi chiama? Guarda, ti le foto dopo. Dopo dimmi che non te le ho mandate. Ehi, a poi le guardo lui. Capito, io dico, prova a dirlo a lui. Magari conosce qualcuno, se conosce, oppure... di sicuro so chi ce li ha, però non so se li vende. Vabbè, io l'ho detto, poi se qualcuno è interessato a venderlo, anche un semplice da 38, mi serve per parlare da camper a camper, tutto lì. Ho capito, cioè va bene. Avanti, chi è rimasto? Io gli aspetto un attimo, vado a vedere queste foto. Uno, lui, è quello che c'avevo io, che era difettoso, che andava in protezione, eccetera, con diversa marca, ma è uguale. Il mio era... non lo ricordo più. Vabbè, comunque, con la pinnica, non me ne ricordo. E comunque è uguale identico, entrava in protezione, poi si è bloccato del tutto, non ha più funzionato. Era di Futuarugu. Il primo che mi avevano mandato era difettoso, gliel'ho mandato indietro alla fabbrica, me l'hanno rimandato, poi si è perso, un casino. Quell'alimentatore avevo l'astuto. Ma sono quelli su internet, sono prezzi assurdi. Ma anche sono marchi. Oggi, così è. Tutti negativi mi stanno. All'apparato me lo da positivo, invece mi hanno smesso me lo da negativo. Come ce li ho, Eugì? Che cosa già? I picchi, guarda se sono positivi, negativi o fermi. Ah, positivi. Boh. E come lo da negativo? Aspetta un secondo. Adesso quando parlo sono positivi, se fischio torna indietro, non si capisce un cavolo. Stazionare 1, va bene. La tua antenna sempre bene va di stazionare UG. Sì, la mia va sempre bene. Si muove proprio pochissimo il rosmetro. E anche la mia faceva così. Si muoveva poco poco. Proprio a volte niente, a volte poco poco, a volte nulla. Io me ne controllo, lo tengo sotto controllo. Poi se voglio rimanere poco nuovo è apparato. Io il rosmetro ce l'ho sempre attaccato io. Ce l'ho attaccato, c'ha la luce, tutto quanto, si vede di notte. Ce l'ho sempre a disposizione, capito bene. Ne ho trovato uno perfetto, 60 euro. No, io l'ho pagato di 200 euro, mi pare, però ho preso nuovo, ed è di quelli con gli strumenti grandi. No, ma io parlo del portatile. Ah, pensa per rotole. Quanto l'hai trovato? 60 euro. Che cos'è? C'è il Mobicom, piglialo che sono buoni quelli. No, l'ho 38. E allora prendo, tanto va bene lo stesso, tanto magari gente che non lo usa lo saranno per quello, non perché non va bene. Ecco, anche i figli sono positivi, a te li mangi. Non devo gridare, cioè le picchi vanno indietro, rimani. E piglialo, piglialo, coro per prendere a lui. Bu. E adesso vediamo, adesso vediamo. Poi c'è, cioè, io ho un microfono da banco, della Rubik, cioè, come che hai detto tu poco fa. Mobicon. Ehi, a Mobicon. Ho un microfono da banco. E dove ce l'hai collegato? Sono qua, dietro il cassetto. Ma da tavolo è? Da tavolo. E beh, perché non lo usi oggi? Perché non si attacca qua. A come si chiama? A quello che sto usando adesso. E tu dove ce l'avevi? Su che apparato ce l'avevi quello? Su Galaxy. E andava bene? Ma certo che andava bene. E beh, lo stai dando quello lì? Ehi, no, intanto non me ne faccio nulla. Ehi, vabbè, io lancio i microfoni, ne ho addirittura due sotto dove c'ho la base, CB. Ce l'ho sotto, nell'ultimo scomparto, ce ne ho due amplificati, però da palmo, non da base. Da base ce li ho tutti e due, io le microfoni che ho da base, gli apparati che ho da base, c'ho tutti e due microfoni da base. Ehi, ehi. Ma già, ci sentiamo che è venuta gente, dai, mi ha chiamato mia moglie. Ciao, a domani, dai, domani entro. Ciao. Ciao G, stammi bene, dai, buona serata. Ciao, ciao, ci sentiamo domani, ciao. Ti è rimasto? Ricciola! Hola, attenzione dietro, c'è qualcuno?